cresciuto in queste strade, sono nato in quella casa dove quasi non ci stava la famiglia numerosa, un patto silenzioso con il padrone di quel porcile, di quelli senza uscita perché alla merce di un vile. Tutti i giorni da mattina a sera dietro quel cortile, puoi tornare in quei tre metri quadri di uno spazio ostile. Du choix de réveil, entraînement sous le soleil, ma track pour sommeil, férocité qui s'éveille. Io che valgo meno di uno yen già prima dell'inizio, sperano in un nuovo Yekeman a togliergli lo sfizio. Reflecteur allumé, spectateur plein d'oseille, monnaie notre son, vidons quelques bouteilles, déplaye la douleur pour satisfaire un plaisir, vie un enfer pour les faire rire, le son et la chair pour rajeunir, alors tu te dis mieux vaut combattre que mourir. Dirty apes, nurture hate at an early age, the burning rage is tremendous, sure to face, murder rates in your cursed ways, the pearly gates will avenge us. Per ricordarne volti e gesti, aspetto che la luna salga per ammirarla tra le volte celesti. Aspetto che si sparga luce nei sogni sui giorni funesti. Avessi le impronte nel cuore, capiresti una vita di resti, indigesti e padroni, i loro bastoni a giustificarne le vesti. Per un po' di carne e sangue ho venduto il mio onore, ho accettato un nuovo nome, non mi ha reso migliore. E il mio amore non ha più l'odore di prima. Le femmine cani ubriacate in una ciotola di champagne urina, parole urlate da una vecchiaia matta che incalza, non ringa più al buio che avanza oltre la cataratta. E finalmente la luna piena si alza dal letargo, il cuore scoppia di gioia, sto morendo come Argo. Lei torna dal suo viaggio per vedermi iniziare il mio, ignorando se cali aspetta il paradiso di Dio. Dirty apes, nurture hate at an early age, the burning rage is tremendous, sure to face, murder rates in your cursed ways, the pearly gates will avenge us. Pour tout souvenir qui défile, qu'on t'a coupé comme un fil, un autre parmi mille. Voilà le destin que le futur me profile. Preso perché solo, quasi raccolto dal suolo, parevano angeli al suono, promesse di volo, curandoli spezzate prematuramente, mentre cuore e mente pregustavano un futuro promettente. Nouveau t'es consommé, l'attitude a changé, ma fête est moins pressée, mes habitudes commencent à déranger. Passer le ton d'amour qui était des locaux bien chauffés, bouffé par le froid dans une baraque éventée. Presunte colpe dentro un can, forse così. Così, finché non ci fu più santo maledetto venerdì, per me che oramai son piaga, e mon âme è trop fragile, abbandonato la mia strada a bordo di quell'autogrill. Represent. Dirty apes,